Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini studio e di Daici in regia. Concludiamo il nostro miniciclo di tre puntate sulla famiglia e nuovi mezzi di comunicazione, i problemi connessi, ritrovando Sandra Costa, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Insegnante e referente territoriale per il San Donatese dell'AIART, che è l'associazione dei radiotelespettatori, giusto? Sì, infatti è nata così, naturalmente adesso si interessa di tutti i media, quindi dai vecchi ai nuovi, vecchi che continuano a esistere, certo, ecco, con i nuovi, e esatto. Proprio di quelli parliamo, appunto, dei nuovi mezzi di comunicazione, in particolare internet, evidentemente, che può essere a casa sul computer oppure su un telefono, su qualsiasi dispositivo portatile, quindi una nuova realtà che evidentemente è da conoscere, anche se è qualche anno che sta cavalcando le nostre vite. Da cosa partiamo? Noi partiamo un po' dalle sfide, no? Che internet ci ha posto, e prima di tutto, diciamo, andando anche a vedere un attimo quali sono stati i cambiamenti di internet. Possiamo pensarlo a un internet iniziale che era un grande recettacolo di informazioni, per arrivare poi a una rete mercato e quindi uno scambio di servizi, e infine è arrivato un internet, una rete piazza, per cui dentro non abbiamo solo le informazioni, non abbiamo solo l'economia, abbiamo anche e soprattutto questa larga parte del web 2.0, dove si fa comunità, si fa socializzazione, e quindi in qualche maniera abbiamo avuto un allargamento di quelle che sono quelle realtà comunicative che la famiglia in qualche maniera deve tenere controllate. I propri figli non sono più inseriti solo in un ambiente reale, sono inseriti anche in un ambiente comunicativo virtuale che va oltre e che va in altre piazze, e in piazze che in qualche maniera c'è di tutto e di più. E che influisce però poi sulla persona, perché è vero che sono virtuali, però i pensieri, i concetti, le immagini sono reali, sono reali, sì. E influiscono evidentemente sullo stato d'animo e sulla vita. In questo evidentemente si usa il termine navigare, non a caso, credo, perché bisogna anche trovare una rotta, una guida e la capacità di sfruttare le potenzialità di questi strumenti, le opportunità positive, e di stare attenti ai pericoli. Certo, infatti, ad esempio, possiamo pensare quanto, dicevamo, esiste bene e male, attendibile, inattendibile, ma esiste anche quella possibilità di entrare in comunità dove si viene accolti, ma anche dove si viene linkati con un mi piace, però possiamo anche essere resi trasparenti o essere perseguitati. Possiamo trovare accoglienza, ma anche trovare l'adescamento per un bambino, per un minore più ingenuo. Quindi ci sono possibilità anche di giocare e di divertirsi, ma anche di diventare dipendenti. Ci sono possibilità di cercare uno svago, ma in qualche maniera si è prolungato. Pensiamo che perdiamo, i nostri ragazzi perdono la dimensione del senso del corpo, del senso dello spazio, del senso tempo. Del tempo. E quindi questo è in qualche maniera esiliare da noi stessi, no? In qualche maniera è proprio un'alienazione, e per questo bisogna che ci siano delle regole. Ci sono delle regole che possono essere dei dispositivi di controllo veri e propri che mettiamo, perché abbiamo detto adescamento, abbiamo detto siti anche pericolosi, quel male, sono proprio dei luoghi, dei siti che possono essere visitati. E vorrei anche segnalare, c'è un bel sito che si chiama www.ilfiltro.it, dove possiamo trovare tutti i tipi di filtri in base anche ai programmi che abbiamo nel nostro computer. E questo è molto bello, perché si legge in questo sito: l'acqua è buona, ma se non è pura va filtrata anche internet. Quindi questo ci dice già un po' il valore. E poi bisogna pensare alla cronologia, impostare la cronologia nel computer, che perlomeno vado a vedere un po' che siti sono stati visitati durante la settimana, durante i 15 giorni, durante l'ultimo mese, perché si può stabilire e risalire. E se poi la troviamo tolta, possiamo anche parlare con nostro figlio come mai ha tolto, ha cancellato la cronologia, perché dobbiamo tenere presente che le cose le sanno molto bene. E poi abbiamo anche un codice di autoregolamentazione internet minori del 2003, e anche quello va conosciuto, e addirittura come IART facciamo anche dei momenti, gruppi di ascolto con i genitori, in cui si va a leggere proprio magari gli articoli, perché abbiamo dei codici ma non sempre li conosciamo abbastanza da poter poi divulgare, saperci poi difendere, saperci attrezzare, insomma. Quindi tutto sommato gli strumenti ci sono. Al di là degli strumenti, però, abbiamo la casa che è colonizzata da schermi, e questo non basta, quindi lo strumento tecnologico a disposizione che abbiamo. E ci sono delle vere e proprie criticità, e queste bisogna proprio conoscere quali sono, condividerle con i nostri figli, perché poi non li possiamo difendere da quelle anche azioni così leggere, irresponsabili, che possiamo avere. Pensiamo alla ricerca personalizzata, no? Questo noi lasciamo traccia, lasciamo degli indizi e veniamo profilati commercialmente. Quindi arriva la pubblicità, esatto, in base a quello che hai cercato. In base a quello che abbiamo cercato. Però questo ci deve mettere anche nella condizione di pensare, ok, vengo profilato in questo modo, però questo mi deve anche far pensare di rendermi responsabile dove vado, in questi siti, dove sosto, che cosa vedo, e in qualche modo vengo tracciato, no? Quindi questo, quel che navigo dunque sono, bisogna un po' tenerlo presente. Poi c'è anche un altro problema, ad esempio sapere che in rete lasciamo delle tracce indelebili, perché non c'è il diritto d'oblio. Questo significa che un'informazione messa dentro in qualche maniera rimane là e può essere ripescata anche a distanza di anni, una foto, un filmato. Quindi renderci responsabili di quello che postiamo, no? Io devo dire, proprio penso a ciò che posto, ecco, certo. Se dobbiamo fare, aiutare i nostri ragazzi, cioè pensare che io quello che metto dentro, quella fotografia, quel video, deve avere una delicatezza, deve avere un tatto, no? Deve avere un rispetto, per cui onestà, trasparenza, dignità della persona devono assolutamente essere dei valori che devono venire incarnati da chi naviga. Innanzitutto nei confronti di se stessi e poi nei confronti degli altri. Tra poco, dopo questa prima pausa, proseguiamo questo discorso su famiglia e nuovi media, internet in particolare. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Morena mía, voy a contarte estadios. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien. Bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobra lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Es y por mi parte pongo a darte lo que me das. Dámelo y dalo bien, y poco a ti, y un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme a Sandra Costa, insegnante e referente dell'AIART, associazione dei radiotelespettatori per la zona del San Donatese. Ricordiamo il sito www.aiart.org. Stiamo parlando di internet all'interno della famiglia con Sandra, alcune criticità che abbiamo messo in evidenza e contro le quali ci sono delle contromisure che innanzitutto partono da noi stessi, ma bisogna esserne coscienti. Dicevamo i filtri, le ricerche, le tracce che sono per lo più indelebili, che si lasciano qualsiasi cosa si faccia oppure venga pubblicata. Sì, certo, il valore di queste tracce, pensiamo anche, apriamo proprio solo un flash sulla violenza, no? La violenza fruita, quella rappresentata, quella verbale, quella della derisione, quella del mettere in imbarazzo qualcuno. La violenza va respinta sempre, e quindi dobbiamo veramente educare i nostri giovani a sapere che quando postano devono sentire forte questa responsabilità. Poi c'è anche il problema, un'altra criticità è l'attendibilità. Se noi pensiamo che attualmente si stima che l'allargamento dell'accesso alla produzione delle pagine abbia portato a pubblicare qualcosa come 1.000 miliardi di pagine disponibili in rete. Questa è veramente una cosa incredibile. Il bibliotecario è il motore di ricerca, come diceva Massimo Marchiori, che è uno degli ideatori di Google. Noi ci rapportiamo a questo grande bibliotecario come all'oracolo di Delfi. Mi serve questa informazione, esatto. Dimmi dove la posso trovare. Mettiamo dentro la domanda, naturalmente noi sappiamo che la risposta ci viene fornita immediatamente, sappiamo che le prime risposte sono quelle più valide, sappiamo che dietro c'è l'intelligenza collettiva, perché naturalmente non è a caso che quella sia la risposta più valida, perché oltre a essere la più cliccata, ma è anche poi vengono, proprio perché siamo profilati, tracciati, proprio si stabilisce anche l'attendibilità di chi ha linkato, no? Quindi se linkata da fonti autorevoli è attendibile. Però questo non basta, perché come si diceva prima c'è di tutto di più. Quindi bisogna proprio sapere che in rete siamo chiamati a creare gerarchie di qualità e di valore delle informazioni con cui veniamo in contatto. E questo creare gerarchie mi fa molto venire in mente a Paolo da Tarso, no? Quando diceva: conoscete tutto e tenete con voi solo ciò che è buono. Questa, per quanto riguarda la rete, io direi oggi con i media rendete visibile ciò che è buono, è proprio un imperativo categorico, che è quello di educare al discernimento praticamente. La rete, appunto, bisogna vedere che sia attendibile, perché non è detto che uno si debba accontentare della prima risposta che trova, ma evidentemente c'è anche il pericolo poi della frammentazione, perché non c'è una risposta sola, ce ne sono tantissime. Certo, la frammentazione è un altro problema, nel senso che noi eravamo abituati ad essere guidati dalla linearità della pagina del libro, adesso siamo guidati dal link. Questo ha contribuito moltissimo anche a sviluppare il pensiero divergente, a riuscire a farci fare dei collegamenti che forse prima eravamo anche troppo chiusi, no? Nel nostro ragionamento. Quello però che dobbiamo educare anche a questo, perché il link ci porta dappertutto e quindi la ricerca orientata, tener presente l'obiettivo quando navigo, quando ricerco, quando linko, è importantissimo. Se invece di navigare si vaga. Si vaga, esatto, si perde tempo e soprattutto non si impara niente, cioè veniamo fuori che solamente ricchi di informazioni frammentate, ma con assolutamente senza un'idea di quello che effettivamente dovevamo raggiungere, no? Come concetto, ecco, questo è un altro problema. Ecco, i link dicevi sono tanti e la tecnologia ci permette di tenerli aperti anche contemporaneamente, più finestre aperte, e anche il pensiero aperto verso vari fronti. Tecnicamente si chiama multitasking questo. Esatto, questa è un'altra delle criticità che, nonostante potesse, può anche un po' apparire, pare ci sia proprio un cambiamento antropologico da questo punto di vista, anche del nostro cervello, che in qualche maniera si sta abituando e adeguando a questi nuovi modi di apprendere, questi nuovi modi di acquisire conoscenza. Però è anche vero che fare tante cose contemporaneamente, per il momento le ricerche hanno proprio dato come risultato che si conosce male, che la memoria non funziona bene, che tratteniamo poco. Ecco, questo è qualcosa che deve in qualche maniera farci pensare, e anche in questo caso fare in modo che questo multitasking cognitivo portato dal link non diventi poi anche un multitasking dal punto di vista delle attività. Se noi pensiamo questo fare un sacco di cose contemporaneamente con più media a disposizione, anche questo è estremamente a volte disorientante. Mi vengono in mente le casalinghe, le mamme, sono di solito le donne che riescono a fare più cose contemporaneamente, ma perché è la vostra struttura del cervello che è fatta. Noi invece uomini ci concentriamo su una cosa sola. Cito un libro a proposito delle modifiche che hai portato, Nicholas Kerr, Internet ci rende stupidi? Punto di domanda, come la rete sta cambiando il nostro cervello. Da questo titolo ripartiamo tra poco. Dal mondo della scuola. I'm seeing my dreams and you aren't there. L'ultima parte di questa puntata, dal mondo della scuola allargato al tema della famiglia e dei nuovi media, internet in particolare, perché se l'è perso, ricito il titolo di prima, internet ci rende stupidi, come la rete sta cambiando il nostro cervello, editore Raffaello Cortina. È un testo interessante che Sandra Costa, nostra ospite, ci ha consigliato, che qui insomma va letto per chi frequenta internet per lavoro o anche perché in famiglia ce l'ha. Un punto di partenza interessante. Stavamo parlando del multitasking, cioè più operazioni, più attività fatte contemporaneamente. Penso al mangiare e guardare la TV, no? Che sì, è un grande classico purtroppo delle nostre famiglie. Ecco, torniamo, ripartiamo da questo punto, no? Sì, perché nel multitasking, se pensiamo, rientra la categoria anche di adulti super attivi, super impegnati, per i quali condurre una vita monotasking richiede proprio uno sforzo, ormai sono quasi naturalizzati in questo modo di fare. Rientrano i nativi digitali, i nostri figli, i nostri alunni, che riescono a fare un sacco di cose contemporaneamente, anche se appunto si diceva non è che questo comporti sia comunque un segno positivo per il nostro per i nostri apprendimenti, per il nostro modo di vivere. E soprattutto dal punto di vista che in questa scorrevolezza si rischia di non riuscire a riconoscere gli elementi di rilievo da quelli irrilevanti, e questo è uno dei grandi mali che può essere un danno grave anche per la democrazia stessa, no? Pensiamo che tutto abbia lo stesso valore, che tutto, no? Abbia lo stesso valore, ed è una base dove proprio fiorisce poi il relativismo, e questo è un altro punto che bisogna farlo un momento di forte riflessione. Rimane paralizzata la capacità riflessiva, e senza questa capacità non siamo nulla, nel senso che ci svuotiamo dei significati più profondi delle cose. Ecco, un pensiero detto relativismo viene al Papa Emerito, perché ormai da qualche giorno lo chiamiamo così, Benedetto XVI. E quindi anche la vita rischia di diventare, l'abbiamo detto, multitasking. Anche no? La vita, certo. E quello che i media, cosa ha fatto questo nuovo assetto di comunicativo? Ha fatto in modo che siamo tutti dentro, per cui non sono solo i genitori che devono vigilare sui figli, ma in qualche modo sono gli adulti stessi che devono vigilare su se stessi, perché comunque hanno gli occhi dei figli addosso, e i comportamenti che hanno con le tecnologie sicuramente diventano dei modelli che trasmettono. Quindi magari io do delle regole come genitore, però alla fine sono io multitasking, sono io uno che si disperde in qualche maniera. Pensiamo magari a genitori fuori della scuola che aspettano il figlio, esce il figlio, viene preso lo zaino in mano, ma l'altra mano è occupata dal cellulare, no? Uh-huh. Non si può tenere il cellulare spento in quel momento di attesa, eppure il bambino magari è pieno di cose da dire ma anche da non dire, è pieno di bisogno di essere guardato semplicemente negli occhi, e quindi abbiamo questo momento a volte che viene proprio sciupato, la tecnologia messa proprio dagli adulti in mezzo come ostacolo, il cellulare o il telefono che funziona in casa anche quando si è a tavola, anche quando si sta giocando con i figli, cioè non pensare che bisogna in qualche maniera non dare proprio la precedenza alle tecnologie e fare invece venire in primo piano le relazioni umane. Alla fine, in questa ipercomunicazione, le relazioni e le comunicazioni più deboli sono proprio tra le persone. Questa è una cosa che inquieta un pochino. È un rischio che si corre molto, no? Come nella prima parte parlavamo dei filtri per il computer, qui servirebbero dei filtri per le persone. Esatto, io li chiamo proprio dei filtri umani, e filtri umani sono anche utilizzati come termine nel codice di autoregolamentazione che citavo prima di internet e minori. E questo, insomma, bisogna allora a un certo momento cominciare a rovesciare un po' le cose, cominciarle a rovesciarle prendendosi un po' la vita, dire al mattino, anziché guardare prima le email, penso di fare una colazione a tavola, magari alzarsi un po' prima, che sia un po' meno frenetica, in maniera che predispongo un ambiente positivo anche per quelle ansie di una giornata che deve essere affrontata. penso di guardare un po' di più negli occhi i miei figli quando vengono a casa, perché a volte abbiamo più l'inquisizione, no? Il poco tempo lo sprechiamo a fare domande ai figli. Invece a volte va bene anche il silenzio con i figli. Pensiamo anche ai figli adolescenti, non hanno voglia tanto di parlare, ma si sentono rassicurati da una presenza che è lì e da uno sguardo che può essere mille volte più accettante, più accogliente, più comprensivo, più delicato rispetto a tante parole che noi diciamo. E senza contare nel rapporto di coppia. Ecco, quindi fare proprio in modo di dare una ripulita a quelle che sono delle abitudini sane in famiglia, e che questo non vuol dire che dobbiamo toglierci del tempo da qualcosa, ma proprio toglierci invece delle cose dal tempo, e il tempo va in questo senso proprio difeso. E poi nello stesso tempo bisogna, nel momento in cui ci diamo noi come adulti delle regole, dobbiamo anche pensare, anche solo quando dobbiamo cambiare un computer, dobbiamo cambiare un telefonino, no? E i nostri figli non devono vedere che per forza abbiamo l'ultimo tipo, devono sapere che quella scelta è motivata da una necessità, perché sicuramente dobbiamo prendere quel programma per poter continuare a lavorare bene, ma non perché altrimenti quello che noi facciamo, quello che noi acquistiamo diventa uno stile anche per loro, e noi siamo abbastanza schiavi, no, di queste mode, di questi stili, e non dobbiamo cadere nella rete. Ecco, allora diamo, come visto che il tempo purtroppo è passato molto velocemente in questa puntata, avevano tante cose da dire, citiamo il sito a cui rimandiamo anche per i contatti, www.iart.org. Proprio un flash per chiudere. Un flash per chiudere è un proverbio africano che a me piace tanto e che dice: per educare un bambino ci vuole un villaggio, e invece per educare un bambino nel villaggio globale ci vuole una comunità coesa, resa forte e solidale anche grazie a questi straordinari mezzi tecnologici. Non vanno demonizzati, possono diventare, come diceva il professor Zizola, artigiani dell'unità del genere umano. E questo è l'augurio che facciamo come associazione, e di collaborare insieme alle famiglie e alla scuola. Grazie allora Sandra Costa, buon lavoro per tutte le attività, grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallini, appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.